Capitolo 19. Sicamores. La carrozza si fece strada fra la neve fino al St. John's Wood, mentre i suoi due occupanti sedevano una a fianco all'altra in silenzio. Ora che erano partiti, ciascuno avvertiva la disperazione del compito al quale erano obbligati, al quale solo quel primo soffocante momento di orrore, quell'assoluta necessità di agire, li aveva spinti. La carrozza chiusa si fermò sulla strada di fronte al cancello d'ingresso dei Sicamores. «È meglio che percorriamo a piedi il viale di accesso», disse Lord Watergate, e spalancò lo sportello della carrozza. A quel punto si era formato uno strato piuttosto alto di neve sulla strada e sui tetti delle case. Gli alberi sembravano mere, grandi macchie bianco-grigiastre, viste attraverso il veloce turbinio dei fiocchi che cadevano, che faceva venire le vertigini a guardarlo. «Una notte terribile per viaggiare», pensò Lord Watergate, mentre apriva il cancello imponente, ma non disse nulla, temendo di fomentare false speranze nel cuore della sua compagna. Procedevano insieme a tentoni, sbandando per il viale. La massa scura della villa era parzialmente nascosta dal tortuoso viottolo di lauri e ulteriormente adombrata dalla bufera di neve. Poi all'improvviso qualcosa fece breccia nell'intorpidimento di Gertrude. Si arrestò bruscamente. «Guardate!» gridò, quasi senza fiato. La casa si presentava ora interamente al loro sguardo. Le finestre del piano superiore erano buie. Le enormi vetrate dello studio avevano le imposte chiuse, ma attraverso le fessure trapelavano linee e punti di una luce soffusa. Lord Watergate portò la mano sul braccio di lei. Pensò, è proprio tipico di Darrell. Deve essere tornato indietro, ma potrebbe comunque essere troppo tardi. Disse, signorina Lorimer, se fossero qui, cosa avete intenzione di fare? Ho intenzione di dire a mia sorella che è stata ingannata e di condurla a casa con me. Gertrude parlò a bassa voce, ma senza esitazione. Da qualche parte, nei recessi della sua anima, dolore, vergogna e rabbia stavano in agguato. Al momento non era pienamente conscia di nulla, tranne che di un irrefrenabile impulso ad agire. Che è stata ingannata? Lord Watergate si voltò dall'altra parte. Realmente Phyllis era stata ingannata e non era un incarico folle quello che si erano sobbarcati. Salirono la scalinata e lui suonò il campanello. Poi, sotto la luce della lucerna appesa, mentre la neve turbinava vorticosamente intorno a loro e gli cadeva addosso, guardò il viso pallido e contratto di Gertrude. «Non sperate nulla. È molto probabile che non si trovino qui». Un lungo momento con il respiro smezzato, poi la porta venne aperta, rivelando un domestico grave che si stagliava contro il vestibolo illuminato. «Desidero vedere il signor Darrell», annunciò Lord Watergate senza mezzi termini. «Non è in casa, vostra signoria». Gertrude si premette la mano sul cuore. «È in casa per me, come sapete benissimo. È partito per l'estero, vostra signoria». Gertrude barcollò leggermente in avanti, aggrappandosi all'architrave, dove stava nell'oscurità alle spalle di Lord Watergate. «Ci sono le luci nello studio e dovete lasciarmi passare», dichiarò Lord Watergate con durezza. La faccia dell'uomo lo tradì. «Perderò il mio posto, signore. Mi dispiace per voi, Shaw. È meglio che vi facciate da parte e che lasciate a me la responsabilità». L'uomo vacillò, prese la moneta dalla mano di Lord Watergate, poi, voltandosi, tornò lentamente ai suoi alloggi. Gertrude venne avanti alla luce. «Non dovete entrare, Lord Watergate». La sua mente lavorava con insolita rapidità. Vedeva che uno scontro fra i due uomini doveva essere evitato. «Non posso lasciarvi andare da sola. Voi non conoscete. Sono preparata a tutto. Lord Watergate, abbiate pietà dell'onore di mia sorella». Gli era passata avanti con un'espressione determinata e tragica. Fissò la magra e svelta figura nel suo abito nero, coperto di neve, farsi strada lungo il corridoio, per poi scomparire dietro la tenda che custodiva l'ingresso dello studio. Gertrude era entrata senza far rumore e, sostando sulla soglia, nascosta nell'ombra, rimase lì immobile il tempo di un attimo. Ogni dettaglio della grande stanza, vista non più di una volta prima di allora, la colpì per una strana familiarità. C'era stata una fredda luce diurna in quel luogo in occasione della sua visita precedente. Ora la calda radiosità di una luce ombrosa e artificiale era diffusa per tutto l'appartamento. Una radiosità raccolta nel fulgore concentrato nell'immediata vicinanza del caminetto. Un fuoco di legna, come alte fiamme blu, ardeva sul focolare. La sua luce colpiva in maniera irregolare gli oggetti circostanti, il tappeto di tigre, l'alto, ricco paravento di scolorito cuoio spagnolo, lo stesso Darrell disteso su un basso sofà con la testa bionda che proiettava la propria ombra sul paravento, una nuvola di fumo di sigaretta che gli usciva dalle labbra, mentre guardava con gli occhi semichiusi la figura che stava dinanzi a lui. Era Phyllis, lì seduta al piccolo tavolo dove erano posati della frutta e del caffè in tazze rosse. Phyllis, eppure una donna nuova e sconosciuta, non la graziosa bambina che le sue sorelle avevano amato, ma una bellissima libertina in una larga veste con lo strascico scintillante e meravigliosa, bianca e lucente come una perla. Phyllis, con i capelli castani che si tingevano d'oro alla luce della lampada che pendeva sopra di lei. Phyllis, con diamanti alle dita affusolate che giocavano con i chicchi d'uva velati di pruina. Per un momento il tepore, l'avvolgente fragranza dei fiori della serra e più di tutto la vista di quella figura al tavolo avevano sottratto a Gertrude la capacità di muoversi e parlare, ma nel suo cuore la tempesta, che si era silenziosamente raccolta, si stava preparando a scoppiare. Per ora le diverse emozioni che la divoravano si erano concentrate in un calore bianco di furore che divampava in tutto il suo essere. Le fiamme salivano alte, i ciocchi crepitavano piacevolmente. Darrell le mise una boccata di fumo verso il soffitto. Phyllis sorrise. Poi all'improvviso in quella scena luminosa scivolò una figura nera e rigida, con occhi ardenti e un'espressione tragica, con la neve disseminata sul vecchio mantello e attaccata alle ciocche dei capelli spettinati dal vento. Phyllis, disse con voce calma, vieni subito a casa con me. Il signor Darrell non può sposarti, è già sposato. Phyllis indietreggiò con un grido. Oh, Gertie, mi hai terrorizzato! Cosa intendi fare? Piombarci addosso in questo modo? La sua voce tremava nonostante la petulanza. Scattò in piedi così improvvisamente che il suo lungo abito si impigliò al tavolino, facendolo cadere sul pavimento con uno schianto. Darrell era balzato in piedi, invendo. Per Dio, che cosa porta qui quella donna? Gertrude si voltò e lo fronteggiò. Il volto di lui era livido di rape, gli occhi sporgenti, per una volta completamente sgranati, la fissavano con rabbia e avversione. Gertrude incrociò il suo sguardo, con gli occhi accesi di una rabbia ancora più feroce della sua. I tizzoni, a lungo covati sotto la cenere, avevano alla fine preso fuoco apertamente. Stavano faccia a faccia, l'uno di fronte all'altra, mentre la battaglia montava silenziosa fra loro. Poi, con uno strano giubilo, un palpito di qualcosa forse simile alla gioia, Gertrude realizzò che era lei, non lui, l'uomo che un tempo l'aveva mortificata. Era lei a essere la più forte dei due. Per lo spazio di un istante, nel suo cuore, quell'istinto feroce esultò. Phyllis, rannicchiata sullo sfondo, Phyllis, bianca come la sua splendida veste, indietreggiò confusa, spaventata. La sua anima leggera andava in frantumi di fronte all'esplosione di quelle passioni, con le quali, per quanto avesse contribuito a farle elevare, sentiva di non avere nulla a che vedere. Considerato il tempo, lo scontro fra quei due spiriti ostili fu altro che breve. Un momento, e Dare le aveva abbassato gli occhi e stava dicendo in un tono simile alla languida voce che gli apparteneva: A cosa devo ascrivere questo onore? Gertrude si voltò in silenzio verso sua sorella. Toglitela, indicò la sua veste scintillante e dopo una pausa aggiunse: E vieni con me. Darrell sghignazzava sullo sfondo. Vostra sorella ha deciso di restare qui. Phyllis, disse Gertrude guardandola. Phyllis cominciò a gemere fra i singhiozzi. Gertie, cosa devo fare? Non guardarmi a quel modo. Il mio vestito è là, dietro il paravento, e il mio cappello, Gertie, non posso in alcun modo indossarlo. Io sono molto più alta. Con le seguita svelte, Gertrude si era slacciata il lungo mantello nero e lo stava avviluppando intorno alla sorella. Santo cielo! Urlava Darrell facendosi avanti e afferrandole le mani. Voi non la porterete via! Non avete alcun diritto al mondo di portarla via contro la sua volontà! Con un freddo e rabbioso disgusto si sottrasse al suo tocco. Oh, Sidney, penso sia meglio che vada. Non sarei dovuta venire. La voce di Phyllis suonava pateticamente infantile. Qualcosa in quei toni supplichevoli gli fece stranamente ribollire il sangue. Lo sapete? Gridava rivolta Gertrude, che aveva lentamente tolto gli anelli dalle mani passive di sua sorella. Lo sapete che razza di notte è? Che se la portate via, la ucciderete. Santo Dio, il vostro concetto di virtù vi impedisce di vedere quanto è precaria la sua salute? Lei fece scorrere i suoi occhi su di lui con gelido disprezzo. Poi avanzò verso il caminetto e posò gli anelli sulla mensola. Vi giuro, gridava, che lascerò questa casa ora, questo minuto, che non vi farò mai più ritorno, che non la vedrò mai più, Phyllis. All'ultima parola la voce era caduta in una tonalità bassa e appassionata. Aveva teso le braccia, ma Gertrude si mise fra loro, stringendo forte e disperatamente Phyllis, che barcollò in avanti a occhi chiusi. Darrell si fece indietro, biascicando un'indistinta esclamazione di pena e di rabbia senza alcun scopo, e Gertrude condusse, reggendone per metà il peso, la sorella via dalla stanza, mentre da sotto il mantello nero, l'odiata veste di raso strascicava rumorosamente dietro di loro. Un'alta figura si fece avanti dall'entrata, perché la porta era rimasta aperta e il bianco vortice era visibile contro l'oscurità dell'esterno. «Si è sentita mancare», disse Gertrude a bassa voce. Lord Watergate la prese delicatamente nelle sue braccia, in quel mentre Darrell spuntò dallo studio, poi rimase immobile sul posto, sbigottito e furente alla vista dell'amico. Siete una canaglia, Darrell, disse Lord Watergate in tono chiaro e deciso. Poi sollevò il fardello con le sue braccia e uscì fuori nell'oscurità, mentre Gertrude richiuse la porta dietro di loro. Mezz'ora dopo la carrozza si fermò davanti alla casa di Upper Baker Street. Lord Watergate, dopo aver portato la ragazza priva di sensi al piano di sopra, andò di persona a cercare un dottore. Penso di averla uccisa, disse Gertrude, prima che lui andasse, guardandolo da sopra il corpo disteso della sorella. E se potessi tornare indietro, lo farei di nuovo. La signora Mary non fece domande. La sua sincera benevolenza e disponibilità vennero chiamate a gran voce da quel momento di difficoltà e i suoi sospetti su Gertrude svanirono per sempre.